l'altra Europa. 6 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia in diretta con l'altra Europa come ogni settimana per raccontare l'Europa delle storie, delle persone, delle opportunità e delle possibilità, l'attualità europea che viene raccontata da Radio 24 giorno per giorno. Il sabato trova questa sfaccettatura un po' più narrativa. Come sempre le nostre segnalazioni con gli Europost-it, come sempre le vostre segnalazioni che ci potete mandare via email all'indirizzo l'altraeuropa@radio24.it. Altra coordinata virtuale sono i nostri social, @FedericoTaddia, oppure i social di Radio 24, Twitter e Facebook, le nostre bacheche digitali. Lì troverete tutti i link minuto per minuto relativi agli argomenti che stiamo toccando. Ogni settimana tanti viaggi, oggi partiamo dalla Macedonia. It's coming through a hole in the air from those nets in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Poche righe, qualche audio, un po' di fotografie per raccontare scontri in Macedonia, quello che è successo l'altra sera, apice di una crisi infinita in questa nazione, crisi che ha avuto appunto questa vistosa e palese punto di cronaca, racconto con questi atti violenti all'interno del Parlamento. Poche righe hanno raccontato quello che è accaduto appunto, e quindi con piacere abbiamo con noi Francesco Martino, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, che ha firmato un bel pezzo intitolato La lunga notte della democrazia macedone. Balcanicaucaso.org il portale. Francesco Martino qua con noi in diretta all'Altra Europa. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori che dicevano. Allora Francesco, cosa è accaduto l'altro giorno, nella notte del 27 aprile, nel Parlamento macedone? Sì, sintetizzando per gli ascoltatori, fondamentalmente c'è stata un'irruzione da parte dei sostenitori dell'ex premier di centrodestra Nikola Gruevski, che fondamentalmente hanno attaccato i deputati della nuova maggioranza, diciamo di centro-sinistra, e appoggiata da alcuni partiti della minoranza albanese, e che avevano appena votato il nuovo presidente del Parlamento. Confronti con i deputati, anche del leader dei socialdemocratici, che si chiama Goran Zaev. Però appunto è molto difficile porre questo atto, che in qualche modo segna tutta la gravità della attuale situazione in Macedonia, senza fare un po' di contesto. Sinceramente diventa sempre più difficile, visto che col passare del tempo la vicenda si fa sempre più ingarbugliata. Francesco, proviamo a richiamarti al volo, perché c'è l'audio un po' disturbato. Noi ci prendiamo il tempo, magari mandiamo l'Europost-it che avevamo in programma al termine della telefonata, e ti richiamiamo immediatamente per vedere se la linea è un po' più pulita. Europost-it. Settimana Europea della Gioventù 2017. Attenzione, giovani europei! Dall'1 al 7 maggio a Bruxelles, in tutta Europa, sarà celebrata la Settimana Europea della Gioventù 2017. Lo slogan di quest'anno è Shape it, Move it, Be it. A Bruxelles gli incontri verteranno su 4 temi molto attuali per l'Unione, cioè la promozione del Corpo Europeo di Solidarietà, le opportunità offerte dal programma Erasmus+, la celebrazione dei 30 anni di Erasmus e la partecipazione alla formulazione delle politiche per i giovani. La Commissione europea ha annunciato conferenze e dibattiti con tutte le istituzioni. Inoltre, vi saranno eventi in contemporanea a livello locale anche in tutti i paesi europei. Programma completo sul sito europa.eu/youth/EYW. Ecco qua, questo è il nostro Europostite. Torniamo con Francesco Martino. Con lui stiamo parlando di quello che è successo in Macedonia l'altra notte. Francesco, vediamo un po' se la linea è migliorata. Pronto? Eccoti. Francesco, spero che stavolta la linea sia migliore. Leggermente. Francesco, cos'è la Macedonia oggi? La Macedonia è un paese, forse il paese europeo più in crisi. Un paese che in questi giorni ha visto una crisi politica che dura da anni toccare il fondo e di cui molti analisti iniziano anche a temere una possibile disgregazione, se non altro istituzionale. Quindi sicuramente un punto dell'Europa spesso fuori dai riflettori. Purtroppo abbiamo visto sotto i riflettori quando accadono cose, eventi come quello cruento dell'altra sera, che però avrebbe bisogno di una forte attenzione da parte europea, perché appunto un piccolo pezzo d'Europa che in questo momento è in estrema difficoltà, e tra l'altro in un contesto quello balcanico che purtroppo negli ultimi mesi ha visto varie crisi diventare più profonde. Però ripeto, la Macedonia in questo momento è sicuramente il paese europeo in difficoltà in assoluto. Sono zone che tu conosci molto bene, le frequenti, anche in questo momento credo tu sia forse tra la Macedonia e l'Albania, ma al di là dell'aspetto politico, la Macedonia come paese è un paese vivo, è un paese dove è vivace, è un paese che ha voglia, ha possibilità, ha segni di riscatto? Ma sicuramente, come posso dire, i segni di un possibile riscatto ci sono. Sono stati, come posso dire, mostrati anche dai tanti giovani che in qualche modo hanno mostrato l'aspetto positivo dell'attuale crisi, tornando ad interessarsi di politica e tornandosi a interessarsi del futuro del proprio paese. Certo che però ha bisogno, come posso dire, di un contesto che l'aiuti. Uno degli fattori principali che ha portato allo stallo e poi alla crisi che vediamo è proprio la chiusura, il congelamento delle prospettive di allargamento e inclusione della Macedonia nell'architettura europea, che in qualche modo ha portato a cascata a un po' la perdita di una prospettiva, se vogliamo. Quindi diciamo, le energie ci sono, ci sarebbe bisogno di una forte empatia, un forte aiuto anche da parte esterna perché possano concretizzarsi e dare appunto i propri frutti. Certo, in questo momento, soprattutto dopo gli eventi dell'altra sera, ci sono, come posso dire, forti dosi di pessimismo, almeno rispetto al futuro a breve. Certo. Vi ricordo ancora balcanicaucaso.org, il portale dell'osservatorio, che è sicuramente il luogo privilegiato, attento, competente per conoscere nei dettagli quella che è la situazione politica, ma la situazione anche sociale dell'intera zona. Francesco, è difficile fare previsioni ora, però cosa ti aspetti che possa accadere nelle prossime ore, nei prossimi giorni? No, sinceramente è estremamente difficile, non difficile, proprio perché la crisi ormai ha chiuso quasi tutte le porte al possibile dialogo. Adesso l'opposizione, che vuole formare un governo, ha dato 10 giorni di tempo al presidente perché il mandato venga assegnato, però è difficile prevedere se ci sarà uno sblocco e quale forma questo sblocco della situazione potrebbe assumere. Certo, ci sono in questo momento forti timori, abbiamo visto insomma in qualche modo è scorso il sangue nel Parlamento di Skopje l'altra sera, e c'è anche un pericolo reale che in qualche modo la situazione possa sfuggire di mano. Io spero che questo non succeda. È sicuramente importante in questo momento che le istituzioni internazionali, soprattutto quelle più impegnate in Macedonia, che sono l'Unione Europea e gli Stati Uniti, in qualche modo non perdano la situazione di vista e che insistano fortemente perché in qualche modo si cerchi una via d'uscita politica, perché l'alternativa può essere molto molto pericolosa. Grazie davvero, bocca al lupo per il tuo lavoro, Francesco Martino, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao, buon sabato. Noi ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, in diretta, con l'altra Europa. L'altra Europa. Sono riuscito a fuggire, ad arrivare a Tripoli. Ho lavorato 6 mesi da operaio e con quel po' di soldi risparmiati sono riuscito a imbarcarmi. Non so nuotare. Ho avuto paura. Ieri, quando vi ho visto dal battello, ho pensato che non sarei più morto. Ora domando protezione per vivere da uomo libero in Europa. Questo è uno stralcio di una lettera tradotta dallo scrittore Harry De Luca. In questo periodo, per 2 settimane, ha vissuto su una barca, su una nave di Medici Senza Frontiere. Lì ha seguito gli operatori nel loro lavoro, lì ha seguito le operazioni di salvataggio di tante persone, lì ha dialogato, ha incontrato disperazione e speranza. E questa disperazione e speranza l'ha raccontata giorno per giorno in una sorta di diario sul Fatto Quotidiano, e abbiamo il piacere di avere con noi Harry De Luca. Ciao Harry, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, come grazie, stai? Benissimo, grazie. Allora, tu eri a bordo di una nave proprio nei giorni, casualmente, in cui insomma c'erano in atto delle polemiche anche vergognose, anche pretestuose, sull'attività delle ONG. Che esperienza hai vissuto? Ho avuto il privilegio di assistere al lavoro magnifico di queste persone, alla loro efficienza organizzativa e alla loro fraternità, che era contagiosa anche per i membri dell'equipaggio. Siccome la nave è una nave noleggiata, insomma, non è scontato che le persone dell'equipaggio, marinai che hanno fatto di tutto nella loro vita, poi partecipi, si sentano insomma di fare qualcosa di più durante questi turni di lavoro. Beh, facevano molto di più, facevano tutto. Mi sono trovato insomma in uno spirito di squadra entusiasmante dal mio punto di vista di osservatore, che cerca dei riscontri insomma nella specie umana, riscontri di umanità nella specie umana, che non trovo diciamo nelle espressioni politiche di questo paese. Ed è, immagino, anche complicato trovare umanità lì, dove ci sono persone che rischiano la vita per avere una nuova vita, che è probabilmente la cosa più disumana che uno possa immaginare. Quando li vedo salire a bordo, uno per uno, da una scaletta di corda, dal gommone che è stato accostato alla nave, sono persone che stanno salendo da un abisso. Non è che sono quei pochi metri di corda, stanno salendo proprio da un abisso generale, dai deserti, dalle prigioni libiche, dalle torture, dagli stupri. Arrivare a salire quei pochi gradini, affacciarsi, per loro quello coincide improvvisamente con la salvezza. Improvvisamente non hanno bisogno di avere più paura di niente, sono al sicuro. E questo è quello che ho potuto vedere, insomma, un privilegio assoluto per me. Harry, nella lettera che hai tradotto, perché lì le persone hanno la possibilità di lasciare scritti, insomma, memorie, tracce di speranze, di ricordo, risuona spesso la parola Europa? No, è una di più l'Italia, più la nave, la salvezza. In quelle c'è una buca delle lettere che hanno stabilito, che hanno fissato a bordo qui quelli di Medici Senza Frontiere, dopo tutte le visite, dopo averli rifocillati, anche dopo una notte, la prima notte lì, perché il viaggio è lungo, sono almeno 30 ore di navigazione, quindi ci sono 2 notti in ballo. Dopo la prima notte che hanno potuto assestarsi, insomma, poi arrivano, cominciano ad aprirsi, allora hanno riempito queste buche di loro messaggi. Alcuni sono semplicemente il nome, quello mi commuove molto, il fatto che ci sia solo il nome, cioè per dire io ci sono ancora, esisto, questo è il mio nome. Altri invece sono pieni di ringraziamenti, di benedizioni per quelli che li hanno salvati. E poi c'è qualche lettera che si è spenta, come questa che citavi tu, che si è spenta a raccontare qualcosa di più della sua vita. Mm-hmm. Eri, tu sei un narratore, sei uno scrittore. Vivendo questa esperienza hai avuto consapevolezza che conosciamo abbastanza di quello che succede? No, anche perché io con tutte le mie buone informazioni e le migliori intenzioni dovevo vedere materialmente come si faceva, cosa succedeva in questo bordo immaginario delle 12 miglia dalle acque della costa libica, come facevamo noi a sapere che c'erano dei gommoni, per esempio, come facevamo a saperlo? Beh, attraverso Facebook, nella maniera più buffa possibile, insomma, cioè Facebook in arabo si raccontano, si avvisano di queste partenze e quindi si sanno quanti gommoni partono di notte, non si sa quante persone sono a bordo, ma insomma sono sempre sovraccarichi. Sono delle zattere di gomma che hanno un motorino di 40 cavalli, cioè è una situazione in cui se il mare non è perfettamente piatto non riescono manco a muoversi, quindi hanno bisogno di mare piatto. E poi basta quello, dopodiché vengono spediti allo sbaraglio, a largo, chi c'è e chi non c'è. Non è che stanno a guardare i trafficanti, se ci sono o non ci sono delle navi di soccorso, non gliene importa un accidente. Ci sono perché adesso ci sono, insomma, ma non gliene importa un accidente. Comunque, quando vogliono saperlo, lo sanno già, perché hanno i loro pescherecci nell'area. I pescherecci di libici che stanno fuori delle acque territoriali, tra le altre cose che vogliono pescare, pescano anche danno informazioni a terra e pescano anche i gommoni che non sono stati affondati e cercano di recuperare anche il motore, questo motorino. Certo. Quindi sanno benissimo chi c'è e chi non c'è, non devono fare nessuna telefonata, diciamo, questa delle telefonate è proprio una cialtroneria che solo uno che sta seduto dietro una scrivania, insomma, si può inventare. Harry De Luca, fondazione harrydeluca.com, come sempre, per leggere anche tutti gli scritti di Harry. Grazie davvero per questa testimonianza, insomma, importante, perché è la penna che sa fotografare l'umanità, come tu ci hai detto poco fa. Grazie Harry, buon sabato. Ciao a voi. Europost-it. Trento Film Festival. A tutti gli appassionati di cinema. È in corso fino al 7 maggio il Trento Film Festival, che, giunto alla sua 65esima edizione, quest'anno è interamente dedicato al rapporto tra uomo e natura. Oltre alla proiezione dei film, vi saranno anche numerosi eventi e mostre sul tema dell'incontro tra l'uomo e il mondo naturale. In programma gli interventi di tantissimi ospiti dal mondo della scienza, della cultura, dell'intrattenimento e dello sport. Tra questi, Reinhold Messner, Ada Mondra, Umberto Guidoni, Alex Bellini e molti altri. Informazioni orari sul sito del festival trentofestival.it. And there's a ghost. Giovani alla seconda per E+, che sta per Erasmus Plus, uguale nuovi europei. Questa è la formula dell'Europa elaborata dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, formula dell'Europa che verrà raccontata, vissuta, spiegata, reinterpretata in una 2 giorni, il 4 e il 5 maggio, presso le officine Farneto a Roma, per celebrare l'ottava edizione della Settimana Europea della Gioventù e per festeggiare insieme i 30 anni di Erasmus. Di tutto ciò ne parliamo con Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e matematico anche, direi, a questo punto. Ciao Giacomo! Ciao Federico, ciao. Buongiorno a te, buongiorno a chi ti ascolta. ho lasciato matematica al liceo, quindi non è cosa mia. Questa formula dell'Europa, l'Europa dei giovani, l'Europa per i giovani, credo che sia questo il grande incontro, la grande contaminazione che andrete e andremo, sarò presente anch'io, ho l'onore di esserci in questa 2 giorni. Ci sei tu, c'è per Luigi Pardo, c'è Luigi Bobba, c'è la Di Francesca, l'olimpionica che espose la bandiera d'Europa a Rio vincendo, ci sarà Stigliosa, ci saranno anche gli nostri, e il tema è proprio questo. Abbiamo elaborato una piccola forma che sembra banale ma aiuta a rendere l'idea. Mm-hmm. I giovani, puntare sui giovani, quindi moltiplicare al quadrato per Erasmus Plus, che è lo strumento della Commissione Europea e mette a loro disposizione, questo fa genera nuovi europei. Il cambiamento, la società inclusiva, la solidarietà, la mobilità, un po' queste le parole chiave per una 2 giorni che credo voglia andare al di là della retorica, e per farlo utilizzerà soprattutto testimonianze di chi l'Europa l'ha vissuta. Sì, assolutamente sì, fuori alla retorica noi abbiamo preso l'abitudine di raccontare non soltanto l'agenzia del programma, ma farlo raccontare da chi attraverso la propria esperienza, la propria testimonianza appunto, può parlare di quello che grazie a questi strumenti, grazie all'agenzia, soprattutto grazie al Erasmus Plus, ha fatto, ha realizzato, ha acquisito dal percorso di vita che ha fatto e che sta facendo. E quindi, come dire, penso come sempre in questi casi che il miglior testimonial, senza nulla togliere ai grandi nomi, però sono chi vive nel concreto e nel quotidiano queste esperienze. Ricordiamo ancora agenziagiovani.it, il portale, lì potete trovare tutto l'intero programma della formula dell'Europa, che poi insomma per chi non potrà esserci all'Officine Farneto verrà tutto raccontato anche attraverso i canali social che sono sempre bene attivi. Assolutamente, sui social si trova sempre tutto l'aggiornamento, faremo la diretta anche dell'evento. Soltanto 30 secondi per segnalare anche che in questa settimana sono tantissimi comuni in tutta Italia stanno aderendo a Millumio d'Erasmus, 9 maggio, giornata della Festa Europa, grazie all'impegno di Indire, ISFOL e Agenzia Giovani, ogni comune ha la possibilità di illuminare con i colori d'Europa un monumento, una piazza, un luogo simbolo e fare in modo che l'impatto d'Europa oggi si arrivi su tutto il territorio nazionale, e sta andando molto bene, anche lì le informazioni sul nostro sito. Mi illumino d'Erasmus, un grazie davvero a Giacomo D'Arrigo, ciao Giacomo, buon sabato. Ciao Fede, grazie a chi ci ascolta, ciao. Ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità poi è ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. European Cycling Challenge 2017. Sei un appassionato di bicicletta e ti piacciono le sfide? Allora attenzione, perché per tutto il mese di maggio in tantissime città d'Europa avrà luogo la European Cycling Challenge 2017, la gara europea a colpi di pedali. Se la tua città è iscritta alla competizione, potrai scaricare la app Navichi dal sito cyclingchallenge.eu e unirti al team cittadino, contribuendo con i tuoi chilometri a far vincere la tua squadra. Potrai utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta, dalla tua Graziella alle bici del bike sharing. Per l'Italia, per ora, sono iscritte le città di Roma, Bologna, Cagliari, Padova e Reggio Emilia, ma l'elenco è in continuo aggiornamento. Regolamento e info sul sito cyclingchallenge.e. L'altra Europa. Right after seeing just the very sight of me. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, lì tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, radio24.it, il nostro sito dove poter trovare i contributi extra, scaricare il podcast e trovare insomma tutte le informazioni relative agli argomenti che trattiamo. La cultura come cemento, la cultura come ossigeno di questa Europa, lo sapete, insomma. Ci seguite da un po', conoscete quello in cui crediamo e sappiamo che la cultura è il vero concime di questa Europa, dell'Europa che ci piace. Quindi amiamo segnalare eventi culturali, contaminazioni culturali che mettono anche la visione europea al centro. E tutto questo accadrà nuovamente a Firenze per la 14ª edizione del Festival Fabbrica Europa dal 4 maggio al 15 giugno, festival che ha avuto anche riconoscimento dell'Ecolabel. Per capire di cosa si tratta e di cosa accadrà, c'è con noi Tommaso Sacchi, capo segreteria dell'Ufficio Cultura del Comune di Firenze. Ciao Tommaso, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno Taddia, buongiorno a tutti. Fabbrica Europa, che cos'è? Ma di fatto Fabbrica Europa nasce come un laboratorio straordinario a Firenze 23 anni fa, quindi siamo davvero indietro negli anni, quando due figure visionarie, due operatori culturali che ancora operano e si occupano di questo, Maurizio Settembri e Andreas Mort, fondatore della Fura del Baus, decidono a Firenze di lavorare su la creazione di una sorta di grande laboratorio che portasse al centro dell'Italia, quindi nel cuore, nella culla della cultura, portasse il dibattito e le pratiche della contemporaneità. E quindi questo anche con un obiettivo di creare una sorta di narrazione comunitaria, quindi nasce questa grande spinta europea di ospitalità e di coinvolgimento su Firenze di queste grandi produzioni che vengono raccontate, che si confrontano in un luogo straordinario, perché ricordo che Fabbrica Europa, che come diceva lei inaugura il 4 di maggio, inaugura all'interno della stazione Leopolda, quindi tanti degli ascoltatori la conoscono per tanti motivi, ma in questo caso parliamo di una stazione Leopolda che viene declinata attraverso i linguaggi della performance e delle arti della scena. Nuove visioni nasce con questa idea, anche il nome Fabbrica Europa. Faccio una domanda che è un po' una provocazione, ma avere ancora questa parola Europa oggi è una sorta di gioco? Ma no, io penso che ci sia molto bisogno di Europa e ci sia molto bisogno di raccontare l'Europa come, tra l'altro, come ben fate voi. Io sono un assiduo ascoltatore della sua trasmissione, quindi conosco come nasce e come si sviluppa. No, l'Europa è l'occasione, il fatto di lavorare intorno al concetto di comunità, al concetto di continente europeo, con tutte le sue diversità. È proprio il luogo dove, nel cuore dell'Europa, a Firenze, deve nascere un festival di questo tipo, che si confronta sulle pratiche e su quelle che sono le ricerche nel campo della performance e oggi anche della musica, perché poi, se ne avremo tempo, parleremo anche di come le contaminazioni di linguaggi e di forme artistiche siano un po' la cifra di questa 23ª edizione, che spazia davvero dalla danza contemporanea indiana fino a grandi protagonisti della scena musicale rock indipendente come Marlene Kunz. Cioè, abbiamo veramente uno spettro ampissimo, proprio perché oggi non si può che lavorare in un'ottica diagonale, quindi proprio in una contaminazione reale di quelli che sono i linguaggi del contemporaneo. Fabbricaeuropa.net, questo è il portale per conoscere l'intero programma, però sì, dai, un paio di esempi di quello che accadrà. Ma allora, ieri sera sono stato al Museo Pecci, che è il Museo di Arte Contemporanea di Prato, sì, Appena fuori Firenze, dove Jérôme Bell, che è un grande coreografo che molti di voi conosceranno, francese, ha portato un lavoro, oltre a una mostra personale curata da Antonia Lampi all'interno del museo. C'è questa serie di performance, una delle grandi performance che vedranno protagonista questo coreografo che lavora su dei temi, come dire, insoliti per quello che è l'accezione comune di coreografia e di danza, perché porta diversità sociali sulla scena e lavora su un concetto di performatività e di performance molto inedito. Non voglio rubare troppo a chi vorrà godersela all'interno della stazione Leopolda. Porterà un lavoro straordinario che si chiama Gala, che è una sorta di celebrazione collettiva, come suggerisce il titolo, non professionale. Cioè sono non danzatori, non professionisti che si misurano attraverso un percorso mimetico di imitazione sulle pratiche della danza. E all'interno di questo spaccato, diciamo, che dura qualche decina di minuti, c'è una diversità di tipologie espressive del corpo e di pratiche espressive del corpo che è assolutamente unica. E questo gioco, appunto, dell'imitazione è una peculiarità. Jérôme Bel non è facile vederlo in Italia, non è facile vederlo in tanti festival, e Fabrica Europa porta proprio questo tipo di novità. Cito così veramente a volo d'uccello una serie di cose straordinarie di questa edizione. Mi vengono in mente i Santa Sangre, mi viene in mente Marc Ribot, vado un po' a memoria, ma insomma l'abbiamo presentato da poco, quindi gioca a mio favore questo. Salvo Lombardo, Marc Ribot, Matthew Herbert, per gli amanti della musica elettronica, che insomma, ha collaborato con Björk, Rem, Yoko Ono. Insomma, un'apertura di linguaggi, di contaminazione, come già è stato detto più volte, di visioni, sì, che credo che sia forse la parola che meglio accompagna Fabrica Europa. Fabricaeuropa.net, un grazie a Tommaso Sacchi, capo segreteria dell'Ufficio Cultura del Comune di Firenze. Buon lavoro, Tommaso. Grazie, buona giornata, grazie mille. I can almost see your house from here, but the signal seems to disappear. So what's the problem? Houston's calling. Then you hit me like a Friday night, like a handgun in a firefight. Dive in slow motion towards the ocean. Let's run away. Ancora contaminazione, ancora incontro con il teatro che diventa il cuore di queste nuove connessioni in un progetto che vede gli adolescenti protagonisti. Italia, Norvegia e Danimarca, le tre nazioni coinvolte in questo progetto dal nome Teen Theatre European Engagement Network, un progetto che cerca di avvicinare i teatri, i ragazzi al teatro attraverso l'arte della critica, quindi la capacità della lettura del teatro per acquisire una grammatica che sia quello dello spettatore attento, dello spettatore attivo. Un progetto che si sviluppa in più mesi e che in questi giorni ha visto la concretizzazione di uno dei momenti più importanti, che è quello appunto degli incontri, della partecipazione a un festival che si teneva vicino a Copenaghen, l'April Festival, che è forse uno degli appuntamenti più importanti in Europa per quello che riguarda il giovane pubblico. Lì c'erano alcuni ragazzi che stanno partecipando a questo progetto, sono gli ambassador, diciamo così, del progetto Teen. Diamo il benvenuto a Nicolas Guandalini, 17enne di Marmirolo, provincia di Mantova, proprio perché a Mantova è nato questo progetto con l'associazione Sieni d'Infanzia. Ciao Nicolas. Ciao, come va? Noi molto bene, tu siete in viaggio di ritorno, credo. Esatto, sì, siamo qua adesso a Copenaghen, che siamo per aspettare il nostro volo per poi tornare a Bergamo in Italia. Esatto, perché il festival si teneva su un'isola di cui ora mi sfugge il nome. Esatto, sì, comunque la città si chiamava Sønderborg ed era a circa un'ora di volo da Copenaghen, ed era una città proprio, insomma, sulla costa, c'era anche, insomma, il porto e era proprio sulla penisola. Città invasa dal teatro, perché questo festival, sì, è un festival itinerante, ogni anno o ogni tot anni, insomma, si sviluppa in una città diversa. Sì, ogni anno, questa qua era circa la 40ª edizione, infatti. 100 compagnie teatrali, e non credo che voi abbiate visto tutti gli spettacoli, perché era impossibile, però cosa avete fatto in questi tre giorni? Sì, dunque, abbiamo innanzitutto visto moltissimi spettacoli, ma la cosa più interessante è il fatto, appunto, che abbiamo potuto condividere le nostre sensazioni sia con i ragazzi, appunto, che partecipano a questo progetto dalla Danimarca e dalla Norvegia. E quindi abbiamo proprio parlato assieme dei nostri vari punti di vista, riguardante appunto sia degli spettacoli in generale, sia appunto di quelli che abbiamo potuto assistere assieme. Mm-hmm. E quindi facendo anche delle sorte di meeting insieme a loro, appunto per poi riuscire a trasmettere questa nostra passione dell'andare a vedere il teatro con altri ragazzi. Nicolas, ma in questi momenti anche di appunto dove si fanno cose insieme, si guarda uno spettacolo insieme, che è una cosa bellissima, dove insomma c'è un linguaggio comune che diventa mm-hmm. vostro, sono più le differenze, certo, o sono più le similitudini tra i ragazzi che saltano fuori? No, diciamo che è giusto il fatto che ci siano comunque delle differenze tra di noi, perché sono, diciamo, quelle che fanno partire la critica e la discussione più che le cose che magari pensiamo in comune riguardanti uno spettacolo visto. Comunque sì, diciamo che sono entrambe molto, molto valide, sono entrambe necessarie, diciamo, come cose. Certo. E quindi sono, diciamo che anche nel momento in cui non ci siamo trovati abbiamo cominciato subito a parlare, c'è stata una sorta di feeling iniziale subito prima ancora che i nostri tutor ci dessero indicazioni riguardanti ciò che dovevamo fare, insomma. Mm-hmm. Questo è il team project, avete capito, insomma, si fanno riflessioni, si guardano spettacoli insieme, si diventa anche amici, credo, perché comunque la possibilità di conoscere altre Esatto, ci siamo scambiati tutti, insomma, tutti adesso con i social, abbiamo fatto alla svelta, quindi abbiamo creato tutti i gruppi WhatsApp necessari per poterci mantenere in contatto, insomma. Insomma, la nuova Europa può nascere anche sui gruppi WhatsApp, questa mi sembra che sia. Certo, ce lo auguriamo. Grazie davvero. Allora, i prossimi step, i prossimi passaggi di questo progetto, cosa succederà ora? Voi continuerete ad andare a teatro e a fare le vostre critiche, giusto? Esatto, tra l'altro questo progetto si conclude circa settembre-ottobre del 2018, di conseguenza abbiamo ancora il tempo per poter andare a vedere altri spettacoli e speriamo che sempre più persone si possano aggregare a noi, sia per poter vedere spettacoli ma anche per, insomma, sì, condividere soprattutto la loro idea riguardante ciò che è l'arte dello spettacolo, insomma, del teatro. Sieninfanzia.org per tutte le informazioni sul Teen Project. Grazie. Ciao Nicolas, grazie davvero. Buon viaggio. Ciao, grazie. Un Europostit adesso, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo qua con l'altra Europa. Europostit. Sve in Georgia. Avete tra i 20 e i 30 anni e siete alla ricerca di un'esperienza di volontariato all'estero? L'Associazione Scambi Europei promuove un'opportunità di servizio volontario europeo in Georgia nel campo dell'imprenditorialità sociale e dello sviluppo del lavoro giovanile. Lo Sve durerà 9 mesi e avrà inizio a giugno. All'interno dello spazio Coworking Generator 9.8 di Tbilisi, i volontari supporteranno l'organizzazione ospitante nelle iniziative e negli eventi culturali, oltre a dedicarsi a diverse iniziative nel no profit. Candidature entro l'8 maggio sul sito scambieuropei.in. L'altra Europa. We don't care too much. You see in waters only a mirage. But we don't need to cool down near the C'è anche un'italiana, una triestina in particolare nella classifica stilata dalla rivista Forbes sui 30 under 30 più influenti, più promettenti, più al top. Si occupa di cooperazione internazionale, un curriculum ricchissimo e vivacissimo, userei anche questo aggettivo, ed è qui con noi, le diamo il benvenuto. Ciao Federica Pesce. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Com'è sentirsi una, appunto, inserita in una classifica mondiale delle migliori under 30? Sinceramente non ci credevo quando ricevo notizia, ero abbastanza rimasta molto allibita, però è un impegno, premio per l'impegno che ci ho messo in tutto quello che ho fatto fino ad ora, e credo che sia anche un incentivo per continuare su questa strada. Tu attualmente vivi a Bruxelles, sei impegnata per la Commissione Europea nel direttorato generale che si occupa delle relazioni con i paesi del Medio Oriente. Esattamente, in particolare mi occupo di cooperazione internazionale, quindi seguo progetti di sviluppo in tutta la regione medio orientale, quindi che va dal Marocco fino alla Siria. In questo momento ovviamente non lavoriamo con la Siria, però con tutti gli altri paesi sì. E mi occupo di tematiche relative al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile. Hai viaggiato tantissimo, Tunisia, Marocco, Egitto, Israele. Stai facendo quello che volevi fare da bambina? Cioè hai le idee chiare, precise da sempre di quello che saresti diventata? È difficile avere le idee chiare quando si ha 18 anni e si decide di lasciare una città bellissima come Trieste per andare a studiare all'estero e intraprendere una nuova esperienza. È molto difficile. Però pian pianino, incontrando delle bellissime persone e facendo un'esperienza tipica, quindi capendo prima di tutto che cosa sia l'Europa ha la possibilità di studiare in paesi come la Francia, il Belgio, la Germania, ma anche la possibilità appunto di una volta europei di andarsene all'estero e di capire anche che l'Europa è sicuramente un continente molto interessante, ma è circondato da vicini altrettanto interessanti, con delle problematiche molto importanti. Quindi è questo che mi ha dato veramente la carica di concentrarmi su tutto quello che è il vicinato europeo, quindi relazioni internazionali, ma con i paesi che ci stanno proprio a fianco, per tentare di creare delle connessioni, per tentare di creare una buona cooperazione con i nostri vicini. Ti sei diplomata al Liceo Petrarca di Trieste, poi hai studiato a Parigi, diversi master in giro per l'Europa. Quanto è contato essere nata a Trieste? Trieste è una porta verso l'Europa. È sicuramente una porta verso l'Europa centrale, verso l'Europa dell'Est, un po', che è un'Europa molto poco conosciuta. È vero che quando a Bruxelles dico a Trieste, tutti quanti, soprattutto i miei colleghi che vengono dall'Est, mi guardano come se dicessi del Dorado, perché effettivamente ha una connotazione a Bruxelles molto, molto importante. Ed è vero che, essendo nata su una frontiera e avendo visto pian pianino tutte le frontiere intorno a me, perché il Friuli Venezia Giulia era appunto prima era frontiera con l'Austria caduta, poi è caduta quella con la Slovenia, e vedendo tutte queste frontiere cadere mi sono detta che ci sarebbe stato qualcosa, che c'è qualcosa al di là delle frontiere, che è importante lavorare perché tutti i tipi di muri e tutti i tipi di frontiere siano abbattuti tra di noi. Federica, qual è il tuo talento? Al di là delle tante competenze, sono passato, insomma, sei giovanissima, è vero che hai iniziato a studiare tanto i master, comunque sei molto giovane, però lo hai individuato, hai capito qual è la cosa che proprio sai fare bene? Ma secondo me è capire che cosa c'è di bello nelle persone. Nella mia strada ho incontrato veramente tante persone, diciamo, con delle qualità e dei carismi particolari, però ho sempre saputo trovare veramente quello, cioè entrare in sintonia con tutte le persone che mi stavano accanto, e stare assieme a loro, appunto amici europei o amici del Medio Oriente, indipendentemente, e tentare insieme a loro di trovare una buona sintonia per lavorare. E questo che mi ha caratterizzato di più di tutto, diciamo, non soltanto i miei, ma anche e soprattutto durante il mio lavoro in questo momento in commissione, che appunto che è un lavoro molto, come si dice in inglese, challenging, bisogna lavorare con tante persone provenienti da paesi diversi, da background diversi, e quindi bisogna saper capire le persone per raggiungere obiettivi comuni. E non c'è il rischio che Bruxelles, che il palazzo, che l'istituzione diventi una gabbia? Per una come te che sembri un po' uno spirito libero. Ma appunto, quando... questa è un'ottima domanda. Se lo si vede da fuori, sì, effettivamente, quando si viene a Bruxelles il tempo è orribile, in questo momento sta per piovere, cioè fa freddo e i palazzi sono tutti di vetro. Però una volta che appunto si incontrano delle persone che sono motivate per lavorare perché la costruzione europea funzioni, e una volta che si rientra appunto in quest'ottica di lavorare insieme per lo stesso obiettivo, secondo me appunto questa visione grigia di Bruxelles, di una gabbia quasi burocratica, cade completamente. E io ho avuto la fortuna appunto di essere sempre stata a contatto con colleghi e amici che sono veramente motivati da quello che fanno e vogliono in questo caso creare lavorare internazionali, ma anche nella costruzione interna dell'Unione Europea, sono veramente motivati da queste tematiche. Federica, saranno gli under 13 a salvare questa Europa? Gli under 30. Gli under 30, scusa, cioè, stavo guardando. sicuramente no, perché c'è sono moltissime persone, anche ascoltando il vostro programma, lo si sente ogni sabato, di quante persone vogliono creare un'altra Europa. Sicuramente non saremo noi 30 da soli a lavorare per un'Europa migliore, però è vero che possiamo dare un buon esempio e soprattutto possiamo tentare di creare una rete di giovani motivati per lavorare per il futuro dell'Europa. Grazie davvero, complimenti e in bocca al lupo per tutte le tue attività, Federica Pesce. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Ciao. E questo saluto e questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, come ogni sabato. Un grazie anche a tutta la squadra, Andrea Roccabella oggi alla parte tecnica, Claudia Schiattoni in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'Altra Europa @radio24.it, il nostro indirizzo, se volete contattarci, se volete segnalarci idee, progetti, eventi, oppure come sempre ci trovate sui social, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook. Ancora grazie, ancora buon sabato, ciao! L'Altra Europa.